Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti. Per questa nostra giornata di giovedì 21 novembre scoppia l'affare Fiat Chrysler, denunciata dalla General Motors anche per motivi di concorrenza industriale, è evidente. Di questo parleremo nella rassegna stampa, ma subito Radio Bullet, buon ascolto. Buongiorno e benvenuti nelle notizie che ci raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Messico ucciso un altro attivista per i diritti umani, Stati Uniti dal 2001 per le guerre in Medio Oriente e Centrasia, spesi 6,4 trilioni di dollari. Nazioni Unite, gli insediamenti israeliani sono illegali. Algeria, si intensificano le proteste in vista del voto. Iraq, Tuk Tuk, il giornale della protesta. Afghanistan, rapporto di Save the Children, dice che i bambini hanno paura di uscire di casa. Bougainville voterà se diventare il paese più giovane del mondo. E ancora Myanmar, Aung San Suu Kyi a capo della squadra per combattere l'accusa di genocidio. Questo e molto altro nel web notiziario di Radio Bullets. E cominciamo con la Bolivia. Salgono a 6 morti durante gli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti 2 giorni fa vicino a un impianto di stoccaggio di carburante a Sencata. Poco prima il difensore del popolo boliviano aveva detto che dal 20 ottobre, giorno delle elezioni, i morti erano 26. Il governo ad interim intanto ha presentato ieri un disegno di legge che mira a creare un percorso in vista delle elezioni e a disinnescare la violenza. Messico. Un attivista per i diritti umani è stato trovato morto tra le montagne del travagliato stato meridionale di Guerrero più di un mese dopo la sua scomparsa. Il procuratore generale di Guerrero ha riferito che le autorità hanno confermato verso mezzogiorno la scoperta del cadavere di Arnulfo Cerón Soriano, scomparso l'11 ottobre dalla città di Tlalpan de Comonforte. 2 le persone arrestate nelle ultime settimane accusate e altre 4 sono sotto indagine. Un altro gruppo per i diritti umani, Tlacinoyan, ha affermato che Cerón è stato seppellito a circa 3 metri di profondità in una tomba clandestina. Le montagne di Guerrero ospitano coltivazioni di campi di papaveri per oppio e numerosi gruppi armati, e questo stato ha assistito ad alcune delle peggiori violenze delle guerre per la droga in Messico. È anche lo stato in cui 43 studenti universitari sono scomparsi nel 2014 per mano di poliziotti collusi e killer di un cartello della droga in uno dei momenti più bui del paese. Gli Stati Uniti, o meglio i contribuenti americani, hanno speso 6,4 trilioni di dollari in guerra in Medio Oriente e Asia nel 2001, nel post 11 settembre, secondo un nuovo studio, quasi 2 trilioni in più rispetto all'intera spesa del governo federale durante l'anno fiscale 2019, recentemente completato. Il rapporto del Watson Institute of International and Public Affairs della Brown University rivela che anche 801.000 persone sono morte a causa diretta dei combattimenti. Di questi, oltre 335.000 erano civili. Altri 21 milioni di persone sono state sfollate a causa della violenza. Le guerre post 11 settembre in Iraq, Afghanistan, Pakistan e Siria si sono estese in oltre 80 paesi, diventando una guerra globale al terrorismo, ma troverete lo studio sul nostro sito. Yemen, oltre 130 attacchi a strutture mediche avvenute durante la guerra potrebbero costituire crimini di guerra per tutte le parti in conflitto, secondo il progetto dello Yemen Archive, che dice che la coalizione saudita che combatte i ribelli filo-iraniani sono responsabili di 72 attacchi, mentre i ribelli, gli Houthi, di almeno 52. Iran, alcune persone con doppia nazionalità e legami con i servizi di intelligence stranieri sarebbero stati arrestati con l'accusa di essere tra i leader dei disordini durante le proteste contro il rincaro della benzina nella provincia di Alborz, vicino a Teheran. I fermati avrebbero passaporti europei, tra cui tedeschi, oltre che di Turchia e Afghanistan. Intanto il presidente Rouhani ha detto che ieri l'Iran considera le proteste per il prezzo del gasolio finite una vittoria sui nemici stranieri. Iraq, i manifestanti hanno bloccato il commercio nel paese e il movimento di camion in entrata e in uscita dal principale porto iracheno nel tentativo di chiedere riforme. Dozzine di manifestanti hanno bloccato l'ingresso del porto di Umm Qasr nella città di Bassora. Da lì si importa grano, olio vegetale e zucchero. Se il governo non ci ascolta, resteremo qui. Sono obbligati ad ascoltarci perché questo porto è condiviso tra i partiti politici e lo Stato. 50 e 50, ha detto un manifestante alla Associated Press. A giorni alterni, un editore occhialuto pigia furiosamente sui tasti del suo computer, invia un documento top secret di 8 pagine, una tipografia anonima vicina a Tahrir Square, a Baghdad, la piazza centrale che si è trasformata nel centro di ciò che è diventato il più grande movimento di protesta nella storia moderna dell'Iraq. Lavorando sotto una nuvola di segretezza, un gruppo di 6 persone lavora rapidamente per pubblicare migliaia di copie di Tuk Tuk, un giornale che rappresenta la voce dei manifestanti che per primi sono scesi in piazza decine di migliaia per denunciare la corruzione del governo dilagante, la scarsità di posti di lavoro e servizi di base, nonostante la vasta ricchezza petrolifera dell'Iraq. Una rivolta senza leader che cerca di smantellare l'attuale sistema di governo. Gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato una serie di attacchi contro obiettivi all'interno della Siria. Ieri funzionari israeliani affermano di aver lanciato dozzine di attacchi molto intensi colpendo l'esercito siriano e la forza iraniana Quds. L'Osservatorio siriano per i diritti umani ha detto che almeno 23 persone sono state uccise negli attacchi, tra cui 21 combattenti e 2 civili. Hanno aggiunto che 16 erano non siriani, anche se non è chiaro se fossero iraniani o semplicemente milizie sciite di altri paesi. Fumata nera per il governo israeliano e si rischia di andare verso le terze elezioni in poco tempo. Benny Gantz ha restituito il mandato al presidente senza nulla di fatto. In televisione ha spiegato di non essere riuscito a rompere il blocco pur avendo tentato ogni strada. Poi ha attaccato il premier Netanyahu accusandolo di condurre una campagna di odio con il solo scopo di formare un governo di transizione che gli elettori israeliani non vogliono. Intanto, dopo l'esploit del segretario di Stato americano Pompeo, che qualche giorno fa ha dichiarato che gli insediamenti israeliani non sono illegali e non violano il diritto internazionale, le Nazioni Unite hanno voluto precisare che sono illegali e violano il diritto internazionale. La decisione del governo degli Stati Uniti è probabilmente l'ultimo chiodo nella bara della soluzione a due stati, ha detto il rappresentante speciale ONU per i diritti umani nei territori palestinesi, Michael Link. Alan Forn ha ricevuto la chiamata di un pescatore al largo della Libia che ha visto un naufragio. 30 persone sarebbero state tratte in salvo, mentre 67 sono morte. Non possiamo confermare questa informazione, scrive Alan Forn su Twitter, ma temiamo una strage. Centinaia di algerini hanno manifestato nella capitale ieri sera per aumentare le pressioni sulle autorità a cancellare le elezioni presidenziali del 12 dicembre prossimo. Le proteste settimanali hanno avuto luogo il martedì e il venerdì da febbraio, ma i manifestanti pare vogliano aumentare la loro presenza nelle strade in vista del voto. Marciando per le strade principali di Algeri, ieri i manifestanti hanno cantato "Nessun voto, nessun voto", mentre le forze di sicurezza intervenivano per disperderli. Il movimento di protesta è scoppiato a febbraio, quando il presidente Abdelaziz Bouteflika si preparava a candidarsi per un altro mandato in occasione di elezioni inizialmente previste per luglio. Centinaia di migliaia di persone hanno marciato ad Algeri, in altre città, chiedendo a lui e al resto della vecchia elite al potere, che aveva governato dall'indipendenza della Francia nel 62, di dimettersi. Radio Bullets. Le notizie che frantumano il silenzio. Ma Malta, poche ore dopo la promessa di grazia garantita dal premier maltese Muscat al presunto mediatore dell'omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia, è stato arrestato l'uomo d'affari Jorgen Fenech, uno dei principali imprenditori di Malta. Era a bordo del suo yacht, bloccato dalle forze armate maltesi mentre cercava di uscire dalle acque territoriali. Lo racconta il Times di Malta. Fenech è anche il titolare di un fondo segreto, 17 Black, denunciato dalla Caruana. Germania, ucciso a coltellate il figlio dell'ex presidente Richard von Weizsäcker, leader negli anni 90, dopo aver tenuto una conferenza in ospedale a Berlino. Fritz, che era un medico, aveva appena parlato delle malattie al fegato quando martedì sera è stato pugnalato in un quartiere. Un'altra persona è stata gravemente ferita, 59 anni, padre di 4 figli, è morto sul posto nonostante gli sforzi per salvarlo. L'aggressore sarebbe un uomo di 57 anni, malato di mente, ha viaggiato dall'estremo ovest della Germania per raggiungerlo e ucciderlo. Afghanistan, Wahid Muzda, noto analista politico che ho intervistato diverse volte, è stato ucciso ieri quando almeno un uomo armato su motocicletta lo ha attaccato vicino all'ambasciata russa nell'area PD7. Muzda stava andando in moschea, era anche un poeta, scrittore, aveva lavorato al Ministero degli Esteri durante il regime dei talebani ed era membro del partito dell'ex signore della guerra, Hekmatyar. Era stato criticato per il suo sostegno alle idee talebane, nessuno ancora rivendicato l'omicidio. E restiamo in Afghanistan perché un recente rapporto pubblicato da Save the Children mostra che la maggior parte dei minori afghani non si sentono al sicuro quando vanno a scuola, al mercato, quando si trovano vicino a edifici governativi o posti di blocco, e una grande percentuale di bambini in alcune zone dell'Afghanistan soffre di sintomi come depressione, ansia e non accesso ai servizi di sostegno. Secondo il rapporto, 2/3 dei genitori in alcune parti del paese affermano che i loro bambini hanno paura delle esplosioni, dei rapimenti e di altre forme di estrema violenza quando vanno a scuola. L'indagine ha incluso 600 genitori e 90 bambini in 4 province. Ha rivelato che i bambini vivono costantemente nella paura per la propria vita e non hanno alcun modo di ottenere aiuto. In alcune parti del paese il 95% dei genitori intervistati ha dichiarato che i propri figli hanno problemi psicologici. Nella città di Kabul è del 65%. Il Myanmar invierà una squadra legale guidata dalla leader Aung San Suu Kyi alla Corte Internazionale di Giustizia per contestare un'accusa di genocidio. L'esercito del paese è stato accusato di aver compiuto stupri di massa, omicidi e rogo di case durante una campagna di controinsurrezione avviata nel Myanmar occidentale nell'agosto 2017 dopo attacchi di ribelli. La violenza ha costretto oltre 700.000 persone della minoranza musulmana Rohingya in fuga nel vicino Bangladesh. La popolazione del Myanmar è prevalentemente buddista. Thailandia, terremoto 6.1, il secondo in meno di 3 ore. Corea del Sud, Trump starebbe considerando di ritirare 4.000 soldati, dice il giornale coreano Chosun Ilbo. Washington avrebbe interrotto i colloqui sui costi della difesa con la Corea del Sud questa settimana dopo aver chiesto a Seoul di aumentare il suo contributo annuale di 5 miliardi di dollari, più di 5 volte quello che paga ora, in una rara dimostrazione pubblica del disaccordo all'interno dell'alleanza. E 18 anni dopo che un accordo di pace ha posto fine a una brutale guerra civile sulle isole di Bougainville, ricche di risorse nel remoto est della Papua Nuova Guinea, le persone andranno alle urne per fare una scelta storica sul futuro status politico del territorio. Il 23 novembre, oltre 200.000 elettori registrati voteranno per scegliere tra una maggiore autonomia all'interno della Papua Nuova Guinea o la piena indipendenza. Le votazioni continueranno fino al 7 dicembre. Il referendum è il risultato di un accordo di pace stipulato nel 2001 che ha posto fine a un conflitto iniziato nel 1989 quando i proprietari terrieri indigeni presero le armi e bloccarono i lavori della miniera di Panguna, una delle più grandi al mondo tra le montagne centrali dell'isola. parlavano del danno ambientale alla terra, ai fiumi derivati dai rifiuti delle mine, sulla disuguaglianza nella distribuzione dei guadagni. La Papua Nuova Guinea, per il quale la miniera di Panguna era una fonte redditizia di entrate, rispose con un blocco intorno a Bougainville, inviando i militari a riprendere il controllo delle isole. Il conflitto imperversò per quasi un decennio, fino al cessato il fuoco nel 1998. L'accordo di pace includeva non solo il referendum, che si sarebbe tenuto 10-15 anni dopo la creazione di un governo autonomo, ma anche il disarmo. Hong Kong, il ministro degli esteri cinese ha convocato l'incaricato d'affari americano William Klein dopo il voto del Senato americano sull'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, minacciando contromisure se la legge diventerà operativa. Dopo il Senato arriva l'ok anche della Camera. Ora Trump dovrà decidere se firmarla e renderla esecutiva, con la conseguenza di inasprire le tensioni con la Cina, oppure mettere il veto, mossa però che non farà piacere al Senato di maggioranza repubblicana, che ha approvato il provvedimento all'unanimità. Australia, continua incessante l'allarme incendi, con decine di roghi fuori controllo negli stati di New South Wales e Queensland, e che ora si è esteso anche al South Australia, con temperature fino a 45 gradi non normali per novembre. Rimangono chiuse 111 scuole, molte residenti sono a rischio ed è stato loro intimato di lasciare le abitazioni. E da parte nostra anche per oggi è tutto, grazie di essere stati con noi, vi ricordo che siamo una radio indipendente, quindi se volete sostenerci www.radiobullets.com/sostienici. In ogni caso, appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie. It's getting to the point where I'm no fun anymore. I am sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours, you are mine, you are what you are. Give back your heart. Remember what we've said and done and felt about each other. Babe, have mercy. Don't let the past remind us of what we are not now. I am not leaving. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Tearing yourself away from me now, you are free and I am crying. This does not mean I don't love you, I do, that's forever, yes and for always. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard. Something inside is telling me that I've got your secret. Are you still listening? Here is the lock and left of the key to your heart. And I love you. I am yours, you are mine, you are what you are. You make it hard, and you make it hard, and you make it hard, and you make it hard. special to the baby. It's my heart, that's a soft and it's a dark, and that's what I have to do. Simonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti al Pinsimonio radiofonico. Le parole di oggi sono a tema industriale e sono inflazione, deflazione, industrializzazione, deindustrializzazione e terziarizzazione. Cominciamo con inflazione, che deriva dal latino inflationis, che è una derivazione di inflare, ossia gonfiare. Il significato economico del termine è sorto negli Stati Uniti d'America dopo la guerra di secessione ed è in economia un aumento prolungato del livello medio generale dei prezzi o anche una diminuzione prolungata del potere d'acquisto, cioè del valore della moneta, le cui cause vengono in genere individuate in una crescita eccessivamente rapida della quantità di moneta in circolazione e in un eccesso di domanda globale o in una pressione al rialzo dei costi. È un fenomeno complesso che i governi cercano di contrastare e controllare in quanto ha forti conseguenze negative sia sulla produzione e l'occupazione, sia sulla distribuzione del reddito fra i gruppi sociali. Per estensione, in senso figurato, l'inflazione è anche un anormale aumento quantitativo accompagnato da un corrispondente deprezzamento qualitativo, cioè un incremento eccessivo sproporzionato al reale bisogno, come c'è un'inflazione di laureati in lettere o di festival cinematografici. Continuiamo con deflazione, che in economia è il fenomeno inverso all'inflazione, consistente nella riduzione del livello generale dei prezzi e nel conseguente aumento del potere d'acquisto della moneta, generalmente determinate da una riduzione della quantità di moneta in circolazione rispetto al reddito prodotto. Si tratta di un fenomeno indesiderato manifestatosi in passato generalmente associato a una riduzione dell'attività economica. Nel linguaggio corrente il termine viene usato impropriamente per designare una riduzione drastica o improvvisa del tasso di inflazione, mentre la politica che persegue tale riduzione dovrebbe denominarsi piuttosto disinflazione. Continuiamo con industrializzazione, che è in senso assoluto ogni forma di intensificazione della produzione di beni e servizi, soprattutto mediante un forte incremento delle industrie, che comporta anche in genere il diffondersi della produzione di massa, la concentrazione di attività produttive in un numero minore di imprese di dimensioni sempre più grandi, e quindi la sostituzione della grande alla piccola e media industria. E in senso locale è la trasformazione dell'economia di un territorio in senso industriale, attraverso cioè lo sviluppo dell'attività industriale con prevalenza sulle altre attività come agricoltura o attività terziarie. L'inverso di questo fenomeno è la deindustrializzazione, che è il processo di cambiamento economico e sociale che avviene progressivamente in un dato territorio e comporta una riduzione del peso delle produzioni industriali a favore della crescita del settore terziario. Il fenomeno della deindustrializzazione è generalmente associato a diversi fattori, tra i quali il progresso tecnologico, lo spostamento progressivo dell'occupazione verso il settore dei servizi, il deficit delle esportazioni o la migrazione di strutture produttive verso aree a basso costo della manodopera. E a questo fenomeno spesso si accompagna quello descritto dall'ultimo termine di oggi, che è terziarizzazione, che è il processo proprio delle economie avanzate che consiste nella progressiva minore incidenza del settore industriale nella formazione del PIL e sull'occupazione a vantaggio del settore terziario, cioè del commercio e dei servizi, e in particolare di quello avanzato che comprende i servizi alla produzione e alle imprese, caratterizzati dal continuo sviluppo delle tecnologie informative e informatiche. E con questa parola termina la puntata di oggi. Io vi ricordo che il Pinsimonio Radiofonico lo potete ascoltare alle 9:15 il martedì, mercoledì e giovedì sui 103.1 di Radio Città Fujiko. E inoltre è disponibile anche il podcast alla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico, alla quale vi invito ad iscrivervi. Buon proseguimento sui 103.1. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con due O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale, e la ritrasmissione in rete o l'invio in qualunque forma. Grazie e buona giornata. Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. minuti di questo 21 novembre. Buongiorno a voi, se l'ascolto della nostra rassegna stampa all'interno di Radio Zanardi, che ha anche il compito di in qualche modo calmierare le notizie che i famosi giornaloni e mezzi di informazione major non danno. Per esempio, tutta la vicenda dell'America Latina, evidentemente scomoda per la coscienza dell'Occidente, quindi in qualche modo rimossa dalle TV e dalle prime pagine, e forse anche dalle seconde e dalle terze, salvo il manifesto che utilizziamo per segnalare la Bolivia. Dialogo e massacro in Bolivia, racconta Claudio Fanti. 6 dimostranti uccisi a Del Alto, ma il blocco intorno al deposito del carburante prosegue. Dialogo dunque. Con i passi avanti, vediamo, passando al dialogo, nel dialogo tra il governo de facto, cioè quello golpista, e il movimento del socialismo, la convocazione di nuove elezioni potrebbe essere davvero questione di poco. La sospensione della sessione parlamentare di martedì, in cui era previsto che il MAS respingesse le dimissioni di Evo Morales, ha realmente contribuito, secondo quanto aveva annunciato la Presidente del Senato Eva Copa, alla, lei ha detto, creazione di un ambiente propizio al dialogo e alla conseguente pacificazione del Paese. Ma che il governo de facto, cioè i golpisti, dice più avanti l'articolo, abbiano fretta è più che comprensibile di fronte ad una crisi che non fa che aggravarsi. Sono saliti a 93 infatti i blocchi stradali in tutto il paese, con conseguenze disastrose sul turismo, che registra già perdite milionarie, sull'approvvigionamento alimentare, con il cibo che inizia a scarseggiare non solo alla PAZ ma anche nei dipartimenti di Ognuro e Potosì, e più in generale sull'intera attività produttiva, con perdite previste di oltre 2 miliardi di dollari, pari a 4 punti prodotti interno lordo. Quindi il golpe ha molte difficoltà. E notate come quale pubblicistica c'era quando erano in piazza gli oppositori di Evo Morales, e che silenzio quando c'è invece questo blocco del paese totale dei sostenitori di Evo Morales. Direi che lo strabismo colpevole dei giornali è fin troppo evidente. E Pérez, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel per la pace Fondación Service Paz y Justicia in Argentina, scrive: il golpe alla paz, ultima puntata del Plan Condor 2. Il piano Condor è quello golpista nordamericano nell'America Latina. Quindi segnala che la ribellione dei popoli arriva quando le condizioni di vita diventano insostenibili e si afferma la disperazione. Dietro a tutti i meccanismi di dominazione c'è la mano degli Stati Uniti d'America, che non vogliono perdere il controllo continentale, che, come negli anni 70, favoriscono colpi di Stato imponendo la dottrina della sicurezza nazionale e attuando il piano Condor 2. È avvenuto contro il presidente Manuel Zelaya in Honduras, un'esperienza pilota con il golpe civico-militare e il rafforzamento della base militare USA a Pulmarola. Hanno fatto seguito il golpe civile parlamentare in Paraguay contro il presidente Fernando Lugo e il golpe parlamentare contro il presidente del Brasile Dilma Rousseff per impedire che Lula si candidasse alle elezioni presidenziali. Il continente è preso mira da colpi di Stato, parlamentari o militari, ma l'obiettivo è lo stesso: bloccare l'avanzata della sovranità dei popoli, perché gli Stati Uniti hanno avviato la cosiddetta guerra giudiziaria. E allora, per rimanere in tema, vado a Contropiano, giornale comunista online, che dà la voce Beatrice Bravo, lavoratrice cilena, che dice che la ribellione cilena non finisca qui, quel che serve a ispirare tutta l'America Latina, sembra in qualche modo fare eco alle parole di Esquivel. Dice: sono una giovane lavoratrice, ho 30 anni e come capirete non ho mai vissuto in alcun modo diverso dall'eredità della dittatura, un regime in Cile che non ci offre altro che miseria, che non ci offre altro che precarietà. Alla nostra gioventù viene detto che non avremo assolutamente alcun diritto a nulla, che se vogliamo studiare dobbiamo prendere in prestito e pagare milioni a banche private, che saremo a corto di possibilità di richiedere un alloggio. Un sistema sanitario così miserabile, cui i membri della nostra famiglia muoiono in un pronto soccorso negli ospedali, dove muoiono nelle liste di attese eterne perché non hanno scorte per curarli, e anche in un paese in cui i nostri anziani sono quelli che portano i più alti tassi di suicidio, perché dopo aver lavorato 40, 50 anni o anche di più, gli uomini d'affari prendono tutti i soldi dalle pensioni e li lasciano poi loro per strada. Questo è il Cile degli uomini d'affari, questa è la vera oasi dell'America Latina di cui i capitalisti hanno parlato così orgogliosamente, dove l'1% dei ricchi prende il 27% della ricchezza. Grazie Alfredo, buongiorno a tutte e tutti. Le previsioni del tempo lasciano una breve tregua questa mattina, anche se ricordiamo che la Protezione Civile ha lasciato per la situazione idrica nella pianura di Bologna l'allerta rosso. Continuiamo con le notizie dal mondo, andando a prendere un'agenzia di stampa su internet. Cila è ancora avvolta nel mistero alla morte di Mimo, torturata per aver preso parte alle proteste. Daniela Carrasco è stata trovata impiccata a un albero, la prima ipotesi era di suicidio. In realtà è stata la donna, conosciuta come il Mimo, aveva preso parte alle proteste che stanno infiammando il Cile. Non si esclude che la sua morte sia dovuta a torture e violenze sessuali. Ancora prendiamo dalla stampa notizie sul mondo e passiamo in America. Sondland, Gordon Sondland, l'ambasciatore in guai a Trump sul caso Ucraina. Abbiamo agito su ordine del presidente. Sì, l'impeachment in America entra in una fase calda. L'ambasciatore è al congresso per un'audizione e conferma che hanno offerto uno scambio a Zelensky. La Casa Bianca naturalmente smentisce. Ancora notizie dal mondo riguardano Hong Kong, studenti assediati al Politecnico, è una fotonotizia che riporta appunto ancora la stampa. Mentre la polizia di Hong Kong cinge d'assedio gli ultimi ribelli, meno di 100 trincerati al Politecnico, Pechino alza la voce con Washington minacciando rappresaglie nel caso in cui il Senato adottasse definitivamente il testo sull'ex colonia britannica che sostiene diritti umani e democrazia, minaccia di sospendere lo statuto economico speciale e vieta la vendita di lacrimogeni alla polizia. È un clima tesissimo quello con cui si avvicina a domenica, quando in teoria si dovrebbe svolgere le elezioni dei consigli distrettuali, quelli destinati al Consiglio legislativo. Sullo sfondo, oltre alla crisi con gli Stati Uniti, c'è anche quella con la Gran Bretagna, esplosa dopo che un ex dipendente della sede diplomatica britannica a Hong Kong ha ritenuto attendibile e denunciato di essere stato incarcerato dalla polizia segreta cinese per confessare che Londra sosterrebbe le rivolte. Ancora notizie dal mondo, le prendiamo da Repubblica. E arriviamo vicino a noi. È stato arrestato sul suo yacht personale l'uomo che ordinò l'omicidio di Daphne a Malta, Jorgen Fenech, 38 anni, rampollo della famiglia con la holding più grande di Malta, era in fuga, i suoi affari con alberghi, giochi d'azzardo ed energia. Caruana Galizia, la giornalista uccisa, che indagava su un giro di tangenti, e lui evidentemente il mandante. Volevo segnalare un articolo di fondo ancora dalla stampa che ce lo propone Gianni Riotta fin dalle prime pagine, e parla delle celle della Turchia dove ci sono reclusi 120 reporter. Il presidente americano Donald Trump si avvia ad avere ormai un migliaio di tweet ufficiali contro le fake news dei giornalisti nell'account personale. I colleghi russi del Cremlino si imbattono spesso in tragici destini, come Maskin Borodin, precipitato dal balcone di casa per aver svelato i piani segreti di Putin in Siria, il caso del blogger saudita Jamal Khashoggi, fatto a pezzi per aver diffuso informazioni gradite alla casa regnante, ha fatto il giro del mondo. E ancora l'articolo prosegue nelle pagine interne della stampa e ci fa capire che questi sono gli anni dei social media, delle disinformazioni, delle grandi piattaforme sui profitti e distratte dalla libertà. Ritorno al populismo e nazionalismo, i due nemici storici della stampa, che hanno forse per la sorpresa di tanti riscoperto come è silenziata la cultura del giornalismo professionale, critico e autorevole. La classe dominante degeneri presto in cricca senza scrupoli. Vengo a un drone italiano che precipita in Libia. Haftar colpito da noi, e le prove che sia italiano sono evidenti con l'ala, col nostro cerchietto tricolore. Ma non è escluso l'incidente. Lorenzo Cremonesi ci dà anche la conferma che arriva dalle forze armate italiane di questo abbattimento. E intanto le brigate antigovernative più i mercenari russi vicine a Tripoli si riavvicinano al territorio occupato da Serraj, riconosciuto dall'Europa. Ma la domanda vera è: cosa ci faceva un drone italiano nell'interno della Libia, ben lontano dalla costa? Perché dovrebbe in qualche modo esulare dai nostri compiti in Libia, o siamo già coinvolti nella guerra? Questo è il tema. Perché ci racconta una scheda del Corriere che attualmente c'è la più importante della nostra missione è l'Ippocrate, che dal settembre 2016 si occupa di sostenere l'ospedale militare da campo posto sulla base delle versioni militari. Poi ci sono 320 soldati di guardia, medici e paramedici, abbiamo i carabinieri che addetti alla sicurezza dell'ambasciata toscana a Tripoli. E infine il Corriere, con un certo mistero, ci dice che non manca una presenza di forze speciali a far che, incaricate per monitorare anche con droni il campo. Quindi, anche perché evidentemente portare le informazioni come si muove il nemico a Serraj è già va da sé una partecipazione alla guerra. Ma passo invece alla Germania, perché col Fatto Quotidiano la grosse coalizione traballa e a KK non si sente neanche tanto bene. Quindi in Europa non c'è nessuna solidità e continuità politica, nemmeno nella Germania, che sembrava essere, come dire, la lavatrice miele d'Europa. Germania, oggi inizia il congresso CDU per la Kramp-Karrenbauer, c'è già il processo alla KK. Il precedente per caso, la serie di gaffe, la batosta elettorale, l'eterno rivale Merz promette battaglia. Quindi anche in Germania non c'è stabilità. Ma vengo invece all'apertura del Manifesto, del Fatto Quotidiano, che ci portano alla Fiat, la macchina nel fango. Quindi non del fango, ma nel fango. Fritz Chrysler nei guai. General Motors fa causa alla rivale con l'accusa di aver pagato tangenti per corrompere la UAV, il potente sindacato dei metalmeccanici americano, che sappiamo è un sindacato metalmeccanico dai tempi di AFL-CIO, molto disponibile a queste cose, nel processo di contrattazione collettiva. Cioè il sindacato si è fatto strumento per l'accordo Fiat Chrysler per la Fiat. Il grande regista sarebbe stato l'ex CEO Sergio Marchionne, l'uomo dal maglione blu, considerato il centro dell'attività fraudolenta. E questo è il tema che poi vede il Manifesto. Anche Marchionne, centro della corruzione, GM, General Motors denuncia FCA. Quindi è ovvio che si intrecciano diverse guerre industriali, in questo caso della Fiat che voleva entrare in America e la General Motors che vuole contrastare l'accordo in Fiat con Peugeot. Il gruppo americano presenta un'azione legale corrompendo il sindacato americano, pagava meno i lavoratori rispetto a noi. Quindi poi dovrà giustificarsi il sindacato americano rispetto ai propri lavoratori. L'accusa riguarda i contratti sottoscritti nel 2011-2015. Il manager scomparso alla centrale nel concepire, eseguire e sponsorizzare l'attività fraudolenta. Questo è quanto. Mentre il Fatto Quotidiano titola con: così Marchionne si comprava i sindacati nordamericani. La General Motors fa causa al racket FCA, perché appunto sa molto di operazione al limite del mafioso, se è vero, se è confermato. Sergio, l'ideatore dell'attività fraudolenta, ex dirigenti di gruppo, hanno già confessato. Quindi effettivamente c'è in brutte acque in casa Fiat in questo momento. Oggi la benzina è rincarata, è l'estate del 46, un litro vale un chilo di insalata, ma chi ci rinuncia, a piedi chi va, ha l'auto che comodità, ha sulla topolino amaranto, vai siedina accanto e adesso si va, se rilascia sciolta un po' la briglia, mi sembra un'Aprilia e rivali non ha. E stringi i denti la bionda, si sente una fionda, abbozza un sorriso con la prima che c'è in lei, con la Topolino amaranto, vai sedimi accanto, col 46. Bionda, non guardare dal finestrino, che c'è un paesaggio che non va, è appena finito il temporale, 6 case su 10 sono andate giù, meglio che tu apri la capota e con i tuoi occhioni guardi in su, beviti sto cielo azzurro e alto che pare di smalto e corre con noi, e sulla Topolino amaranto, vai siedimi accanto che adesso si va, se ne lascio sciolta un po' la briglia, mi sembra un'Aprilia e rivali non ha, spingi denti la bionda, apposta un sorriso. Denti la bionda, si sente una fionda, abbozza un sorriso, con la pipa che c'è in lei, sulla Topolino amaranto, si va con un incanto nel 46. Topolino amaranto, non già di Paolo Conte, ma non cantata da Conte, ma da Paolo Serrazzi, che ringraziamo per il contributo musicale, ma veniamo invece verso l'Italia, transitando per l'Europa. L'Europa dice sì alla manovra, debito verifica in primavera, quindi come sempre Dombrovski tiene i paesi sulla lama del rasoio. Dombrovski, le famose spade di Damocle, ma c'è il pericolo di deviazione. Conte, con Bruxelles non avremo problemi. Sette paesi espresse necessità di misure sostitutive per sette paesi, tra cui anche la Francia, il Belgio e la Spagna, quindi la spada di Damocle si allunga. E poi c'è questa vicenda che sta infiammando il dibattito della politica: cosa succederà del salva stati? Molti vogliono in qualche modo seppellirlo in Europa per condannare i paesi indebitati alla gogna greca, e altri invece non lo vogliono, evidentemente sono i paesi stessi indebitati. Il fondo salva stati è decisivo, altrimenti banche a rischio. Questo è il Pierre Moscovici, perché anche la Francia ha i suoi problemi, e Moscovici arriva dal mondo transalpino, oggi è commissario di affari economici, come tale è interpellato dal Corriere. Questo mentre Gualtieri sulla nostra manovra dice, sempre dal Corriere: modifica sul bilancio ma saldi invariati. Mentre il bastone e la carota, questo è il commento del Manifesto sul sì dell'Europa alla manovra. Il Conte B sospeso sulla graticola dell'Unione Europea fino a primavera, né bocciato né promosso, rinviati giudizio sulla legge di bilancio. Dombrovski vicini alle regole, famose regole, le regole che sembrano proprio delle bastonate, però ci c'è la regola. Restano rischi di inadempimento. Rispetto a che cosa? Non si capisce bene. Ma sulle accuse del salva stati c'è caos totale. Conte attacca Salvini, perché Salvini ha detto: Conte ha firmato questo accordo segretamente dal Parlamento, un tradimento di Stato. Conte dice: mai firmato niente. E sul dibattito Salvini sa tutto, perché era presente alle riunioni. Salvini ribatte: io ero presente alle riunioni, ma dicevo sempre no, quindi o sei scemo o lo fai, c'è una delle due, o te la fanno sotto il naso. Comunque, il presidente dell'ABI Battuelli, ci passa anche lui, l'eterno Battuelli, lo marino sempre in piedi: se passa la riforma non compriamo più titoli di Stato. E poi la frenata, perché se passa la riforma dopo diventa un problema naturalmente dare atto alle minacce proposte. Ma nella maggioranza c'è di tutto e di più, non solo la lite tra maggioranza e opposizione, ma anzi forse i liti maggiori sono i siluri interni della maggioranza. Giustizia, la lite non va in prescrizione, passano giorni e i vertici gennaio si avvicina, la maggioranza non trova un accordo sul processo penale. Sarebbe curioso che il governo cadesse perché non si vuole mandare in prescrizione i reati commessi. Questo è abbastanza uno specchio della situazione. Le proposte di Bonafede hanno per acquisire il danno sulla durata dei processi provocato dalla riforma, alleati a ferri corti, il PD passi in avanti, ma non ci siamo. Su questo il Fatto Quotidiano è lapidario: il PD prescrizione o sarà crisi? Molti tentati dalla legge di Forza Italia, che ovviamente la legge di Forza Italia è liquidatoria delle pene in corso. La minaccia Dem: votiamo con Berlusconi sulla prescrizione. E poi chi l'ha fatta franca? Bossi con la prescrizione, Scajola, Berlusconi, Andreotti, vediamo nomi famosi, la scuola Diaz, il pestaggio sulla scuola Diaz, la Vitola, ancora Giorgio Orsone, quello del Mose di Venezia, tanto di cui parleremo più avanti, Calciopoli, Luciano Moggi, Denis Verdini, tanti altri, insomma, viva la prescrizione. Ma nel frattempo però i giornali della destra sono presi da un altro attacco al governo, quello che il Tempo di Roma, giornale della destra appunto capitolina, assalto ai conti correnti, svolta sovietica, né più né meno che sovietica, dei rossogialli. Il governo dà il via libera dai sindaci per pignorarci, perché evidentemente anche il Tempo non paga le bollette, non paga le tasse, quindi ha pure del pignoramento, quindi usano noi. Conosce se resti indietro, ganasce se resti indietro con IMU e TASI. Conte fa il vago, ma i tecnici del Senato lo smentiscono. Naturalmente l'IMU non riguarda le famiglie, perché le famiglie non le pagano se non per le seconde case, riguarda le aziende. Anche il giornale: sono pure ladri, pignoramenti facili, emendamento shock, prelievi forzosi a chi non paga IMU e multe. Quindi il giornale, prendendo il presupposto che non paga le cose allo Stato è una cosa giusta, guai se mi vengono a prendere i soldi, questo è il concetto. Manovra, poi l'Unione Europea non crede l'Italia, conti a rischio, Forte Italia, non solo Ilva, oltre 200 le crisi aziendali. Sì, governo, manovra e partiti. Cominciamo con Repubblica, pagina 6, Carmelo Lo Papa ci dice che Di Maio non firma il decreto salva stati e Conte sta già pensando di chiedere un rinvio. Il Premier vuole evitare un incidente in Parlamento, lo scontro con Salvini, l'abbiamo sentito detto prima da Alfredo, ma Gualtieri difende il trattato, domani il vertice di governo, e c'è un breve trafiletto dove si spiega che cos'è il meccanismo europeo di stabilità, che è un fondo salva stati. Se ne è dotato l'Eurogruppo negli anni della crisi, che i 19 paesi che partecipano con quote proporzionale al PIL. L'Italia con quindi circa 14 miliardi a finanziare, poi che è stato finanziato la crisi economica in Grecia, in Spagna, in Portogallo, Irlanda e Cipro. I timori sono, nella discussione si sono fronteggiate due posizioni: paesi nordici come sempre timorosi di prestare soldi a chi ha già un forte debito, e la sponda del sud che vuole evitare il ripetersi di umiliazioni modello Grecia. E il compromesso da votare all'Euro Summit il 13 dicembre passa solo all'unanimità. C'è Zingaretti che è allarmato perché nel Movimento 5 Stelle c'è caos e secondo lui solo Grillo può dare una svolta. Il leader riunisce i ministri Dem e al Movimento manca una leadership chiara, e Conte non vuole, non può esercitarla, e chiede di dare battaglia sui temi del PD. A proposito del Movimento 5 Stelle, oggi sulla piattaforma Rousseau dalle ore 12 alle ore 20 si vota per decidere se il Movimento si presenterà alle elezioni regionali, quelle dell'Emilia Romagna ma anche quelle della Calabria. I personaggi sull'onda sono appunto Bugani, vicino a Davide Casaleggio, Pizzarotti è eletto sindaco di Parma dal 2012 al 2017, che è stato di fatto cacciato dal Movimento 5 Stelle, e Favia, che è anche lui di Bologna, attivista della prima ora, e star in Emilia Romagna, che è stato espulso da Beppe Grillo. La crisi è cominciata a Imola, l'emblema perfetto della crisi grillina, Roccaforte Rossa, per più di 70 anni è stata spugnata a giugno del 2018 dal Movimento 5 Stelle, ma la sindaca si è già dimessa. E ancora per gli argomenti governo, partiti e manovra, ci sono altre notizie che prendiamo dal Resto del Carlino. A pagina 2 si parla di pignoramenti, sprint, ed è già scontro fra maggioranza e opposizione. Salvini, siamo l'Unione Sovietica fiscale, ma il Premier dice non cambierà nulla. Slitta il decreto legge sul fisco in aula al 12 dicembre, slitta l'esame del fisco con 700 emendamenti, l'esame in aula inizierà da lunedì 2 dicembre, già si parla di fiducia per evitare possibili incidenti. Di percorso, manovra zavorrata, ben 4.500 modifiche. La manovra che è in corso è ancora in fase di decisione, ci sono 4.500 emendamenti in aula, approdo previsto per il 3 dicembre, poi servirà l'ok alla Camera. Tasse sul gasolio per quello che riguarda l'agricoltura, 150 euro all'ettaro, è un danno per gli agricoltori che usano macchine a gasolio. E l'esenzione dell'IMU per i terremotati non ci sarà, niente proroga dell'esenzione IMU per gli immobili resi inagibili dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto. Il Carroccio annuncia la bocciatura, ovviamente notizia di Repubblica. E c'è ancora un'altra notizia sempre dalle pagine del Carlino sul welfare: così il sud si mangia il reddito nel mezzogiorno, il 60% degli aiuti mazzata da 444 milioni al mese. E un'altra spina nel fianco del nuovo welfare sono le cifre del reddito di cittadinanza, con le domande presentate al 31 ottobre, 519 euro è l'importo medio erogato dal reddito di cittadinanza e 2,36 milioni le persone coinvolte da questi provvedimenti, e 444 milioni di euro al mese la spesa per la misura in Italia. Lega nel PPE, entriamo nel mondo dei partiti, il tentativo di Berlusconi. Ormai Berlusconi si muove da imperatore, ma ricorda la pulce nella barzelletta con l'elefante. Oggi l'ex premier parla al congresso dei popolari. Tusk, nuovo presidente, l'incontro con Salvini viene segnalato da Virginia Piccolillo del Corriere della Sera. Mentre Toti, che è il suo movimento scissionista da Forza Italia, Toti, il voto è lontano, c'è tempo per crescere, voglio fare la sinistra del centro-destra. Questo naturalmente chi diventa l'immaginifico diventa senza confini, fino a fare accapponire anche lo stesso Sant'Agostino. Il governatore, Forza Italia, il loro declino continua. Ma direi che però anche Toti non sta crescendo più come pensava forse all'inizio. E passando poi invece alla Lega sopracitata, andiamo a comizi social e spostamenti, giorni non stop di Salvini, in aula perdono tempo. È per quello che poi Salvini non sa niente, non sa del salvastati, perché è sempre in giro e non si informa, non va alle commissioni, non va in Parlamento, non va al Viminale, fa solo delle chiacchiere ai bar con i Buito. Gli account del leader lanciano i gattini che mangiano le sardine, perché ci ha messo un po' di tempo per agire. C'è il suo think tank che manovra la social network eccetera, subito non hanno capito bene come trattare questa cosa. Comunque di questo parleremo più avanti. Dunque, match su Twitter con il milanista Suso, più grinta, perché naturalmente per ridefinire la sua così elemento padano alla mano, parla del Milan, scusatemi il termine, parla della figa, cioè parla dei motori, e così sembra uno di noi. No, è uno di loro, per carità. Così il Fatto Italiano, il Fatto Quotidiano, parla della Lega, che parlerà anche del Milan, ma è sempre a caccia di improventi e non piccoli, non è che si parla di 100.000 euro, qui si va a colpi di milioni di euro. E allora, soldi alla Lega, la Genova indaga sulle 14 operazioni sospette, certamente sui flussi di denaro in orbita verde. I magistrati capitolini hanno inviato una notazione ai colleghi liguri, accertamenti in corso della Guardia di Finanza, questa sempre della serie Roma ladrona. Da allora, da Roma che indaga Centemero per finanziamento illecito, atti utili per colleghi genovesi. Dicevo che qual è il Grisby? Questa volta sarebbero 49 milioni, cioè, ma quanti ne prendono? Ammesso non concesso che ne prendono uno su 10, beh, è comunque una bella lotta. Nucleo valutario, finalizzati flussi di finanziamenti contro una serie di società o anche soggetti vicini a Salvini. Ma naturalmente è in buona compagnia, ahimè. Soldi al PD nelle chat del telefono di Parnasi, famoso costruttore dello stadio romano. Donazioni, chiamala donazione. I carabinieri ritengono aver trovato riscontri le tesi che il pagamento il costruttore forse finanziamento illecito. E poi dicevamo, abbiamo le sardine che evidentemente non sono una spina ma sono una lisca nella gola della destra, che forse sarà illusa che le sardine puoi mangiarle così in un colpo. Sono piccole lische ma sono tante e quindi rischiano. E allora c'è la controffensiva, appunto, il gattino di Salvini che si mangia le sardine, ma anche Libero, altro mangalenatore della stampa italiana, ce l'ha. Non sa chi votarsi, così la sinistra si aggrappa a Suor Sardina. Suor Sardina, la monaca che ama banche e rifugiati, bello, è tutto l'universo del pensiero della destra, banche e rifugiati, manca solo Soros, fa la militante nelle piazze che odiano Salvini. Questo è. E allora a Suor Sardina di Libero risponde Marco Revelli, intervistato dal Fatto Quotidiano: non chiamateli girotondi, le sardine sono l'anticorpo, non c'entrano niente con i movimenti del passato, sono giovani e guardano oltre i partiti, una medicina all'odio di Salvini. Questo è quello che arriva da Revelli, mentre il Corriere della Sera sulle sardine, nostalgia 5 Stelle per le piazze, le sardine eravamo noi. Ma veramente era un'altra cosa, perché passare dal vaffa di Grillo alle sardine mi sembra che sia un certo salto di segno, di qualità. Bugani, un mondo che si era affidato al movimento, ora cerca nuovi interlocutori. Questo è il malinconie 5 Stelle segnalate dal Corriere della Sera, mentre il Giornale, altro nemico evidentemente giurato delle sardine, ci dà questo tema che arriva in dodicesima pagina, e qui scorriamo velocemente all'interno del foglio di Sallusti per trovare appunto il tema: le sardine selvagge sono il pesce pilota della sinistra in crisi. Non vuol dire nulla questa cosa, no? Perché sono selvagge le sardine? Il pesce pilota perché? Cioè, ma il fenomeno si allarga ad altre città, ma sono i pezzi di PD che ritentano la rottamazione. Oddio, diciamo che c'è il popolo, quindi c'è anche tanto PD, ma in particolare a partire da Bologna non mi sembra che fosse tanto manovrata, bastava essere presenti per sapere che quanto sia un tentativo di esorcizzare un movimento che di fatto, al di là del essere dei partiti o non essere dei partiti, ma nel mondo democratico rifiuta l'ipotesi Salvini-Meloni come una sciagura per la nostra patria. Scene già viste da Moretti e Serracchiani, appunto, i girotondi, qui rispondeva Revelli. I Serracchiani, ma comunque, e spuntano i soliti intellettuali e VIP. Questo è il quadro che è, appunto, vediamo cosa c'entra la Serracchiani con i movimenti di piazza, perché lo spiega. Da giovane sconosciuta, militante in un'assemblea del circolo del PD nel 2009, contestò le gerarchie, salvo poi avere le cariche. Non c'entra assolutamente, come direbbero gli intellettuali, quelli colti, non c'entra una sega. I cavoli a merenda. E intanto dal movimento di protesta le sardine si sono trasformate in qualcosa di costruttivo e il movimento si sta allargando alle piazze di Parma, Torino, Roma e quant'altro. Ma veniamo a un altro argomento, l'ambiente. Partiamo da una notizia locale. Ricordiamo che sabato l'associazione Rigenerazione No Speculazione dei Prati di Caprara ha lanciato una call per fare un'azione di guerriglia garden all'interno della parte del parco dei Prati di Caprara che è stato disboscato selvaggiamente nella prima fase in cui il comune aveva intenzione di fare un centro commerciale, case, scuole, parcheggi e quant'altro. Ebbene, sabato alle ore 11 c'è questa azione di guerriglia garden all'interno dei Prati di Caprara, partecipiamo numerosi. E su questa notizia fa il coro Il Resto del Carlino a pagina 20 e c'è un intervista a Mercede Massolè di Milano, 59 anni, insegnante di musica e spagnola, trapiantata a Milano, ha già organizzato 500 attacchi di guerriglia garden verdi nella città. Che male faccio? Porto ossigeno a tutti. E ora non devo più agire di nascosto, adesso le amministrazioni sono molto più sensibili. Ma un altro tema che prendiamo per quello che riguarda l'ambiente, andiamo a recuperare internazionale di questa settimana e c'è l'articolo di copertina che ci parla di chi sono i padroni del clima e sono i fondi di investimento. Ecco chi potrebbe fermare la crisi climatica se solo lo volessero. È un articolo di Bill McKibben sul The New Yorker, che è il settimanale del New York Times. Dall'America, le banche, i gestori di patrimonio e le compagnie di assicurazione finanziano le aziende di combustibili fossili. Per fermare la crisi climatica bisognerebbe convincerli a investire i loro soldi altrove. E questo scrittore è un ambientalista, è tra i fondatori dell'ONG 350.org e il suo ultimo libro è Terra A, come farcela su un pianeta più ostile, edizione Ambiente. E in pratica ci dice che qualcosa possiamo farlo noi piccoli consumatori e piccoli investitori se ci rivolgiamo alle banche e se chiediamo di modificare i nostri patrimoni finanziari, così come consumatori che si rivolgono appunto al mercato. Quindi fondi di investimento per muovere le cose, ma anche assicurazioni, perché per certi aspetti il settore delle assicurazioni somiglia molto a quello delle banche, della gestione patrimoniale, controlla una vasta quantità di denaro e di solito investe ingenti somme nell'industria dei combustibili fossili. Ma prendiamo in considerazione due interessanti caratteristiche che la distinguono. La prima è che ne sa di più, perché le compagnie di assicurazione sanno valutare i rischi e da parecchio tempo che hanno individuato le crisi climatiche anche loro sanno come fare per uscire da questa crisi. Ma è proprio questo il punto: saremmo tutti costretti a cambiare. In tutto il mondo gli agricoltori che lasciano le terre perché il livello del mare sta salendo, le siccità stanno già creando milioni di profughi rispetto ai cambiamenti richiesti dalla crisi climatica. I banchieri, gli investitori e gli assicuratori avranno vita facile, una piccola parte del loro giro d'affari dovrà scomparire o essere sostituita da qualcosa di nuovo. Nessuno dovrebbe mai essere padrone dell'universo, ma per ora i colossi della finanza sono i padroni del nostro pianeta. Possiamo forse costringerli a usare il loro potere? Facciamolo, ma molto rapidamente, visto che siamo in emergenza. Torniamo a Venezia. Domenica Venezia in piazza dopo la mareggiata per dire no al Mose. Dopo i giorni dell'emergenza, racconta Riccardo Bottazzo dal Manifesto, arrivano i giorni della mobilitazione. Noi non ci siamo tirati indietro quando c'è stato da rimboccarsi le maniche e aiutare le persone che avevano le case e i negozi allagati. Non ci tiriamo indietro adesso che vogliamo e dobbiamo far sentire la voce di Venezia a quanti pretendono di decidere il suo futuro senza tener conto dei nuovi scenari climatici. E Anna De Faveri, giovanissima studentessa di Fridays for Future, è una delle tante ragazze che hanno fatto gli angeli del fango, e allora vengono molto bloldate dei giornaloni. Adesso che parlano di Nolmose, silenzio, della loro manifestazione di domenica. Non chiamiamola qual, dice Tommaso Cacciari del laboratorio Morion. Quella che ha colpito Venezia è stata una cosa ben diversa dalle molte solite acque alte, maree. È stata un'onda anomala causata dalla sovrapposizione di un fenomeno meteorologico estremo dovuto al cambiamento climatico e dalla devastazione di una laguna trasformata in merce da modello di sviluppo sconsiderato. E su un altro no è quello che arriva da chi? Dal FAI. Quindi che chiede di sospendere questa il Mose. Ancora 413 milioni, dice il Fatto Quotidiano, pronto cassa, il Mose scopre un tesoro. Il consorzio Venezia Nuova chiede al Ministero la cifra già stanziata alla CIPE risparmiata dagli sugli interessi bancari 2003-2018. C'è un cronoprogramma, dicono dal Fatto Quotidiano con l'articolo di Giuseppe Petro Belli. Se l'opera non verrà terminata entro il 2021 non sarà per una questione economica. Poi invece abbiamo la richiesta dei commissari al MIT della serie Ipse Dixit, lo disse: chiediamo l'utilizzo di queste somme per residuali, per risolvere le criticità, portare a termine i lavori necessari e per il primo avviamento. E il Gazzettino Nord-Est parla di quei tanti no a Venezia, perché c'è questa domanda: ma com'è se il Mose era così necessario? Coram populi, almeno dei giornali, non dei veneziani, a quanto si vede, e non è mai stato fatto. Quei tanti no a Venezia, dice il Gazzettino del Nord-Est. Ecco i carteggi riservati tra Regione Veneto e Governo sulla salva guardia della laguna. Nel 2018 e 2019 chiesti più volte interventi, finanziamenti, tutti rimasti senza risposta. E poi, parlando di ambiente, andiamo al Manifesto ancora, che dice: il Green New Deal, tanto citato dal governo Conte, invece può attendere. Rinviato il taglio dei sussidi dannosi, ovvero sia viene ritirato l'emendamento che limitava il sostegno alle fonti fossili, quindi sono illimitate. 5 Stelle per evitare i fraintendimenti. No, non c'è nessun fraintendimento, che credetemi. E poi entriamo con l'extraterrestre Manifesto, inserto le giovedì sull'ambiente stesso, che parla non della voce del padrone, ma della foce del padrone, con la F. Lo stato dei fiumi italiani è moribondo, quasi 70% inquinato da pesticidi e altre sostanze chimiche, l'ecosistema ucciso dagli scarichi industriali ed agricoli, ma l'altro nemico dei corsi naturali dell'acqua è il consumo di suolo a ridosso degli argini fluviali. Negli ultimi 50 anni vengono cementificati 2.000 metri quadrati, l'equivalente di 310.000 campi da calcio, terreno fertile per le esondazioni causate dagli eventi climatici estremi. La denuncia riguarda il WWF in un convegno oggi che si terrà in quel di Roma. E poi, sempre da questo inserto, scegliamo un altro momento estremamente allarmante che riguarda la cultura tayloristica dell'agroalimentare, cioè quindi della catena del cibo, che segnala con Francesco Bilotta la peste suina di Laga, la più vasta epidemia nella storia degli allevamenti, ha colpito i maiali di Africa, Asia ed Europa. Ancora non si sa come fermare il flagello che ha il suo epicentro in Cina, dove vengono abbattuti 100 milioni di capi. Naturalmente possiamo pensare a chi mangia, ma pensiamo anche alle bestie che cresciute in posti allucinanti e abbattute quando appunto non fanno più profitto e sono portatori di disastri. In Brasile, in Amazzonia, deforestazione senza più limiti. Quindi anche con Bolsonaro non c'è limite all'ignobile. Nemmeno si può immaginare un'area vasta come 1,4 milioni di campi da calcio, quindi quella dei fiumi è niente. È questione con l'area fotografata dal programma monitoraggio satellitare della foresta amazzonica brasiliana condotto dall'Istituto Brasiliano di Ricerche Spaziali. Lo afferma Greenpeace. La politica del presidente Bolsonaro sta annientando la capacità del Brasile di combattere la deforestazione, favorendo chi commette crimini ambientali e incoraggiando le violenze verso popoli indigeni e a comunità forestali tradizionali. Sì, ancora per questo c'è un supporto musicale, una canzone. Sì, che dalle foreste ci parla del mare con Dolce Nera. Sole in mezzo al mare, tra milioni e milioni di buste. la fine, le siga e cannucce, metà del pianeta di plastica, un bimbo gioca in spiaggia innocente, mi dice che la fine è imminente, che anche colpa mia è evidente. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare il mare, amare te, ama o ma si fosse si ama. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare il mare, amare te, ama o ma si fosse mi ama. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare il mare, amare te, ama o ma si fosse si ama. A chi non piace comprare, serve spazio mentale per avere morale, un Photoshop alla madre terra, ricordi like al pianeta terra. Milioni e milioni di buste, bottiglie, piattini e cosucce, metà del pianeta di plastica, un bimbo gioca in spiaggia innocente, mi dice che la fine è imminente, che è stata colpa mia evidente. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare il mare, amare te, ama o ma si fosse si ama. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare il mare, amare te, ama o ma si fosse mi ama. Amare il mare, amare il mare, amare te, amare il mare, amare il mare, amare te, ama o ma si fosse si ama. E per legare il mondo dell'ambiente a quello del lavoro, i temi sono diversi, parleremo sicuramente dell'Ilva, ma mi cominci invece con ancora extraterrestre, inserto del manifesto sull'ambiente, Ilva, Whirlpool e gli altri diritti umani. Al Festival Napoletano del Cinema si parlerà di ciclima e lavoro, una sessione ospitata dalla fabbrica di lavatrici a rischio chiusura. Questo è, segnaliamo appunto, dei tanti tavoli in crisi che hanno anche un tema legato, pensiamo a Napoli, che ha già avuto le dismissioni di Bagnoli con quello che ha significato. Ma per quanto riguarda invece l'Ilva di Taranto, l'Ilva, ArcelorMittal ha installato un nuovo concetto: abbiamo pagato i fornitori strategici. Ora, chi sia lo strategico dei fornitori, non so chi ha dato la carta igienica all'Ilva, è un fornitore strategico o meno? È una domanda questo, probabilmente chi dà le materie prime, allora tutti gli altri, chi se ne frega, si devono dare dei soldi. I sindacati, mobilitazione generale a partire dall'Ilva per tutta l'industria. Domani l'incontro governo azienda, Patuanelli apre lo scudo penale ma senza esuberi. Questo è quanto, naturalmente lo scudo penale almeno venga fatto solo per l'Ilva, non per tutti, perché uno sconcio generalizzato è ancora più grave. Ma parlando sempre di lavoro, il dossier: schiavi dell'autolavaggio e colf, il nato nascosto del caporalato, lavoro nero, legge quello fatto quotidiano con Bisbiglia, lavoro nero, con la legge 199/2016 le sanzioni rispetto agli anni precedenti sono triplicate. Il terziario: i dati diffusi dall'arma dei carabinieri evidenziano il contagio nei settori dei servizi, ed è significativo, al di là che di quello che leggiamo, che queste cose non arrivano da mobilitazioni popolari, non arrivano dal sindacato, ma arrivano dall'osservazione dei carabinieri, dà un po' anche il segno dei tempi. Mentre morte sul lavoro, si avvicina il Natale, puntuale come appunto la morte, ahimè, Messina, esplode la fabbrica dei fuochi, muoiono in cinque, scene terribili. Tra le vittime la moglie del proprietario, due feriti, l'ipotesi delle scintille provocate da una saldatrice, perché si lavora, non è il caso, è una metafora, in una Santa Barbara di pirotecnica. La forza di Bartolomeo salvato tra le fiamme, dite al mio bimbo che papà torna a casa. Il 34enne ha tentato di aiutare sua madre ma non ha riuscito a salvargli la vita. Pensate che è talmente grave questa cosa che l'area di Barcellona in Pozzo di Gotto, luogo della tragedia, adesso vede le operazioni continuare, e l'area è pericolosa. Il nucleo investigativo antinvigili vigili del fuoco è al lavoro per accertare le cause dell'effragrazione, e quindi è interdetta l'area, perché possono esserci delle altre cose esplosive che possono prendere ancora fuoco. Sì, ancora delle cronache italiane del mondo del lavoro, la prima pagina di Repubblica con articoli di Ciriaco, Cuzzocrea, Lo Papa e Petrini ci parlano di Alitalia che è un binario morto, le ferrovie italiane si sfilano dalla trattativa e senza Atlantia è impossibile rilevare la compagnia. Patuanelli prepara un'altra proroga che sarà la settima, l'ottava prevista per la salvaguardia di e le decisioni finali per il governo in questa situazione. E oltre ai giornalisti che ho citato c'è un bel fondo di Massimo Giannini sempre sulla Repubblica che inizia dicendo tutte le economie mondiali sono in affanno si chiude il triangolo delle crisi in Italia, tre giganteschi fallimenti e quindi certificano il collasso del sistema paese, l'irresponsabilità delle sue classi dirigenti, la paralisi dei meccanismi decisionali, un quadro desolante che potremmo chiamare l'allegoria del cattivo governo, governo della politica, dell'economia, del territorio, governo della destra, della sinistra, del centro, e mette insieme tre casi, il caso Mose e l'infarto che colpisce il cuore del nord, la marea sommerge Venezia e con Venezia affoga una certa idea del paese che funziona, l'Italia che produce, lo hanno progettato negli anni 80 e ancora avanti. E poi c'è il caso Ilva, la metastasi che avvelena il povero sud, anche qui 25 anni di disastri, svanito il sogno dell'acciaio, il tricolore di Oscar Sinigaglia, ecco l'Ital Sider che perde 1.000 miliardi di lirette, la privatizzazione avviata da Amato e la vendita a Riva perfezionata appunto da Dini, il capitalista privato che spolpa Taranto ed esporta fondi neri. E poi c'è il caso all'Italia, il paradigma perfetto del velitarismo del centro romano dell'Italia, appunto la compagnia aerea più potelizzata della terra, dove i ministri hanno imposto per anni le rotte per santificare le feste nei rispettivi collegi elettorali. Il resto è lo stesso copione, mala gestione pubblica, pessima privatizzazione, un partner estero mai veramente ingaggiato tra Malev, KLM, Air France, manager fuggiti con bonus milionari nonostante i conti in rosso, ridicoli piani fenice, usa e getta da campagna elettorale, pure qui inchieste, magistrature, come sempre commissari a suggellare il pasticcio e dal quale adesso dopo 8 prestiti ponte si stanno sfilando tutti, Delta, Lufthansa, Atlantia e forse anche FS. All'Italia perde 1 milione al giorno e ci è costata finora 8,7 miliardi. Oggi sposi, più riti in municipio che nozze in chiesa, dice il Corriere, parla del sorpasso. Matrimoni, sorpasso storico, il rito civile supera quello religioso, lo dice l'Istat. Nel 2018, prima volta nella storia, i matrimoni con rito civile hanno superato quelli con rito religioso e rappresentano il 50,1% del totale delle unioni. Il sorpasso non è scattato per quanto riguarda le prime nozze, dove l'altare batte ancora decisamente la cerimonia in comune. E infatti l'Avvenire, il giornale cattolico, si consola eppur ci si sposa, segnalando che comunque si alza l'età delle prime nozze a 33 anni. Ancora il Corriere, il giornale, ci aggiunge un altro elemento, stabili le unioni gay, perché molto preoccupati i giornali di come si sposano i gay o le unioni. Ma vengo invece a un altro aspetto che parla con la terza pagina, gli eventi del Corriere della Sera, che con Marta Ghezzi ti dà un appuntamento a Milano dove si tiene il WeWork Festival che presenta dati freschi su una concessione allarmante. Spesso gli abusi parlano la stessa lingua, ovvero la voce bassa degli ultimi, violenza su donne e bambini, se il male ha un codice comune. E allora su violenza alle donne abbiamo anche un servizio che ci propone la nostra redazione, che parla di 2 giorni della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Sabato 23 novembre, non una di meno, torna in piazza per il quarto anno consecutivo con una manifestazione nazionale che si terrà poi in quel di Roma. Per conoscere le rivendicazioni del movimento femminista ascoltiamo l'intervista a Francesca e queste sono le sue parole. Questa manifestazione è ormai la quarta, chiamata da non una di meno, e di conseguenza è una manifestazione che deve tenere conto di una serie di cose, cioè di un percorso che è già iniziato negli anni scorsi, che si è sviluppato, si è fortificato, si è radicalizzato negli anni e si è arricchito arricchito di una complessità del discorso stesso che appunto si è sviluppata in questi anni. E poi è anche un po' un momento estremamente importante per il movimento, perché avviene dopo un anno, quindi l'anno scorso, di estrema radicalizzazione della lotta e anche di una presenza nelle piazze delle città di tutta Italia e non solo, di tutto il mondo, estremamente importante, estremamente forte, per rispondere anche l'anno scorso a un governo giallo-leghista che faceva vedere in un qualche modo la sua faccia più brutale, più violenta, razzista e sessista. Lo abbiamo visto l'anno scorso con i decreti sicurezza Salvini, con l'exploit del congresso delle famiglie a Verona, dove la faccia più conservatrice del governo, e in realtà non solo di questo governo, ma si è potuto vedere la connessione in realtà transnazionale anche dall'altra parte, dove però la rabbia femminista e transfemminista è esplosa in una manifestazione senza precedenti. Questa rabbia è stata anche la potenza che ha portato un 8 marzo fortissimo l'anno scorso. A tutto questo il movimento si trova a dover rispondere a un governo che dichiara una presunta discontinuità, quindi un governo invece 5 Stelle PD che appunto dichiara una discontinuità ma non fa nulla per ritirare i decreti di sicurezza che ancora sono assolutamente lì intonsi, un governo che comunque è parte di un'Europa che davanti alle minacce di Erdogan durante la guerra in Siria, che comunque continua, ha dato una sorta di resa nel momento in cui vi è stata la minaccia di aprire i confini e far entrare i migranti, un governo che appunto ha al suo interno i 5 Stelle che sono la stessa, che fanno parte della stessa giunta che a Roma in questo momento sta minacciando Luce e Siesta, la casa delle donne Luce e Siesta. Quindi insomma questa manifestazione raccoglie tutto il processo che c'è stato in questi anni, ma deve avere la forza, ed è questa la grande scommessa, di esplodere nuovamente. La manifestazione raccoglie tutto il processo che c'è stato in questi anni, ma deve avere la forza, ed è questa la grande scommessa, di esplodere nuovamente ed essere nuovamente coinvolgente, perché i problemi che ci portano in piazza, che ci portano in piazza estremamente arrabbiate, ma anche felici di trovarci insieme quel giorno, sono ancora tutti lì, ecco. Tu hai citato Lucesi? Meno. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Elzeviri e zirconi estratti dai giacimenti culturali. 18 e 24 minuti primi del giovedì 21 novembre abbiamo sentito Francesca che ci parlava della manifestazione nazionale Non Una di Meno, ma qualcosa si muove anche a Bologna, e prendiamo dalle pagine di Repubblica locali: la forza delle donne che alzano la voce, al via il festival Violenza Illustrata, 60 eventi a partire dal 25 novembre. In un anno in città 606 sono state le richieste d'aiuto. In Piazza Renzo vi sarà un'installazione, anche i muri parlano, tante casette rosa con le azioni messe in campo dai vari centri antiviolenza. Il festival cercherà di portare sotto i riflettori questa importante tematica, affrontata non più solo in incontri magari interessanti ma per gli addetti ai lavori, e imbastendo piuttosto un ricco cartellone di eventi, mostre, spettacoli e presentazioni di libri e performance. La voce delle donne prenderà forma quindi in anche spettacoli teatrali, tra i quali Raptus, mito greco al femminicidio, il 26 novembre all'Arena del Sole. Ancora una notizia da Bologna: c'è stato l'incontro televisivo, lo scontro tra la Bonaccini e Bergonzoni per la guida della Regione Emilia Romagna. A sentire Carlino, cittadini divisi, chi ha visto il duello in TV non sa chi dare il votare alle regionali, vuol dire che ha vinto Bonaccini, se lo dice Carlino. Sanità e sicurezza delle priorità, ma tutti apprezzano i toni pacati del dibattito. L'altro tema, che è la copertina del Carlino questa mattina: l'argine salvato, indice in sicurezza e lavori record, il nostro reportage. E si parla dell'acqua che ha distrutto il bar, ma ci rialzeremo per i clienti, oppure i nostri cavalli in pericolo, ora hanno trovato un tetto. Insomma, emergenza maltempo. E su questo, casa Carlo Chiti di Vedrana di Budri, una struttura per adulti disabili gestita dalla cooperativa sociale L'Orto, viene allagata dall'alluvione di domenica scorso. Per permettere alla cooperativa di ripartire, per dare un nuovo tetto agli utenti, viene lanciata una raccolta fondi. La presidentessa Sara Martinelli ci ha raccontato questa situazione. Con questo noi vi salutiamo e diamo appuntamento a domani sempre a stessa ora. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Domenica pomeriggio un'onda ha raggiunto la nostra struttura, che è una struttura che ospita persone adulte con disabilità. Domenica erano presenti 6 ospiti del gruppo appartamento con 2 operatori, fortunatamente al primo piano, perché la struttura residenziale è al primo piano, quindi loro sono stati per fortuna al sicuro tutto il tempo. Però da domenica pomeriggio la struttura, che probabilmente si trova in uno dei punti più bassi della zona, è stata sommersa da 1 metro d'acqua, quindi il piano terra era ovviamente inagibile e i soccorsi sono riusciti a raggiungere verso sera la struttura, però hanno valutato assieme di aspettare la mattina dopo a evacuare le persone. E quindi noi da domenica pomeriggio ad oggi e chissà fino a quando abbiamo la struttura inagibile, dove svolgevamo queste 2 tipologie di servizi, una residenziale e una diurna. E per quanto riguarda la struttura residenziale, per fortuna noi abbiamo potuto già ospitare i ragazzi prima nella sede che abbiamo a Minerbio, e attualmente ci è stato offerto dall'ARCA di Granarolo, che è una comunità, uno spazio che avevano libero, provvisoriamente ci stanno ospitando lì, mentre per il centro diurno adesso stiamo cercando di capire come riavviarlo al più presto. L'obiettivo comunque è quello di riuscire a tornare in quella struttura. Esatto, allora preciso che la struttura non è di nostra proprietà, ma è della Fondazione Benny di Budrio, con loro siamo in stretto contatto telefonico, insomma ci stiamo tenendo aggiornati, però noi abbiamo lì tutte le nostre cose e anche la sede amministrativa. Al piano terra c'è la sede amministrativa, che come potete immaginare non esiste più, dove avevamo archiviato anche tutta la nostra documentazione, PC, insomma avevamo lì gli automezzi parcheggiati, tutti i mobili, insomma immaginate, poi un centro diurno socio-riabilitativo ha tutta una serie di attrezzature, e questo era tutto al piano terreno. Siete riusciti a fare una stima dei danni o ancora è presto? Al momento direi che è ancora un po' presto, forse. Se vogliamo dire un numero, appunto tenendo conto che c'erano gli automezzi, tutti i mobili, attrezzature informatiche, abbigliamento, materiali di cancelleria e quant'altro, abbiamo ipotizzato un 100.000 euro. Sì, insomma, quindi insomma non sono piccoli danni, sono danni, piccoli danni, no. consistenti. E questo appunto, come dicevo prima, riguarda i nostri materiali, le nostre attrezzature, quindi non riguarda la struttura, non riguarda appunto gli impianti, le mura, insomma, i muri, tutto quello che è strutturale. Poi oltretutto noi avevamo lì un bel parco, dico avevamo nel senso che non so immaginare cosa troveremo, quindi c'era il parco con sedie, tavoli e l'attrezzatura per la manutenzione del prato, quindi taglia erba, trattorino, del cespugliatore, quindi avevamo una piccola serra, tra l'altro appena costruita, ne si è rimessa tutti gli attrezzi per il giardino, quindi appunto la stima dei danni, avevamo 2 casette, adesso mi stanno venendo in mente le cose, casette di legno nel parco dove tenevamo gli oggetti. È per questo che avete lanciato un appello per insomma una raccolta di fondi. Esatto, noi abbiamo pensato che fosse importante muoverci subito in questa direzione, perché alcune cose, ad esempio gli automezzi, penso che noi dobbiamo riacquistarli abbastanza in fretta, perché anche se nel momento in cui troviamo delle sedi alternative provvisorie per i servizi, sicuramente i mezzi ci servono per i trasporti dei ragazzi,